Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi Angelina Jolie è riuscita a far approvare alle Nazioni Unite una risoluzione contro gli stupri di guerra, ricordando che la lotta contro la violenza sessuale è una loro responsabilità. Il desiderio non ha nulla a che vedere con lo stupro, commenta Dacia Maraini in un editoriale sul Corriere della Sera. E quella che è in atto oggi è una vera e propria guerra fra i sessi. Ha ragione Angelina Jolie a chiedere una maggiore responsabilizzazione da parte dei governi di paesi che si dichiarano emancipati e contrari allo stupro. Tutti si indignano a parole quando la cronaca racconta di stupri solitari o multipli, ma quando si tratta di prendere decisioni di tipo culturale o legale, poco o niente si riesce a fare. Lo stupro non ha niente a che vedere col desiderio sessuale, dichiara la Jolie. Lo stupro non ha niente di naturale, infatti gli animali non stuprano. La violenza sessuale è un'arma di invenzione umana, usata per intimidire e terrorizzare il nemico in guerra. Ma allora, dirà qualcuno, dobbiamo pensare che molti uomini vedono il corpo delle donne come nemico? In effetti, coloro, per fortuna sono una minoranza, ma una minoranza aggressiva e pericolosa, che si arroccano dentro una identità virile basata sul possesso, sono terrorizzati dalla crescente autonomia delle donne, soprattutto delle donne che considerano di loro proprietà, ovvero mogli, fidanzate, amanti, figlie, eccetera. E quando lei dice «me ne vado», quest'uomo dalla fragile identità virile viene preso da una tale paura e da una tale rabbia che può trasformarsi in assassino della donna che dice di amare, ma a volte anche di se stesso. Riflettiamo. Cosa c'entra il desiderio, che è una cosa bella e vitale, con lo stupro collettivo di due quindicenni che poi vengono impiccate a un albero? Piuttosto appare come una terribile punizione. Una punizione contro il fatto stesso di essere donna e di circolare liberamente, anziché starsene chiusa in casa, a legittimare un principio di proprietà. Nell'atto dello stupro, che troppo spesso viene chiamato con indulgenza delitto passionale, io ci vedo anche un'idea di dissacrazione. Sporcare il ventre femminile nel luogo sacro della nascita, umiliarlo e lacerarlo, fa parte della strategia di dominio. Ma poiché oggi la guerra fra i sessi non è ammessa, almeno nel mondo libero dal fanatismo religioso, anzi si opera in nome della parità di diritti, le tecniche di sottomissione si spostano dalla prigionia familiare, dall'uso delle punizioni corporali, alla continua insistita svalutazione del pensiero e dell'autonomia femminile. Nel momento che si dichiara libero il suo corpo, lo si relega alla mercificazione. Sei libera, ragazza mia, di spogliarti, di agghindarti, di sedurre, di venderti, ma non di camminare tranquillamente per strada di notte. Per quanto mi riguarda, non credo ai metodi coercitivi, anche se le punizioni sono necessarie. Ma è essenziale cominciare a denunciare, non legalmente, ma culturalmente, certi fumetti, certi film, certi programmi televisivi che sono un implicito invito alla violenza. E bisogna insistere nelle scuole per un'educazione al rispetto dell'altro, donna o uomo che sia. Un dovere primario, fondamentale, irrinunciabile, anche quando l'altro ci fa soffrire, ci pianta in asso, ci tradisce. Possedere una persona, anche se ci sentiamo giustificati dall'amore, significa semplicemente renderla schiava. E la schiavitù è perversa e antistorica. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Dacia Maraini, La guerra fra i sessi che ferisce le donne, dal Corriere della Sera del 17 giugno. Letture di Radio 24. Si chiama Animal Crush, la nuova moda perversa che si sta diffondendo in rete. Video solitamente provenienti da est europeo, Cina e Asia orientale, dove si vedono atti di estrema crudeltà nei confronti di piccoli animali. Jocelyn è una splendida, affascinante ragazzona dai capelli castano chiari. Alta 1,90 m, pesa 80 kg. Simili sono le dimensioni della bionda dai capelli corti, Roxanne. Più modeste quella della bruna Cinzia, in apparenza meno giovane e gentile, o dell'angelica Dominique o della giovanissima Tatiana, dall'atteggiamento alquanto arrogante. Di loro si può conoscere anche il numero di scarpa. Come si fa a sapere tutto questo? Queste loro misure sono inserite in un'apposita pagina online, assieme a quelle di un altro centinaio di ragazze, quasi nessuna delle quali bruttina o sotto 1,70 m di altezza. Cosa hanno in comune queste bellezze probabilmente native della Russia o altri paesi dell'Est Europa? Il fatto che siano sorprendenti protagoniste di filmati nel corso dei quali schiacciano sotto i piedi, nudi o calzati da eleganti scarpe, il più delle volte con tacchi a spillo o stivali, innocenti e inermi bestioline, quali chiocciole, rane, lombrichi, aragoste, gamberi, pesci rossi, grilli, ragni, blatte, persino farfalle, eccetera. In alternativa ci si passa sopra con biciclette, moto, autovetture, sempre condotte da donne, giovani e carine. In ogni caso, sottolineiamo una peculiarità: gli animaletti sono vivi. Le modalità e gli atteggiamenti sono vari. Si va dal distratto al divertito, dal diligente al sadico. In una o in gruppo, magari salendo insieme su una lastra di vetro, sotto la quale c'è la povera vittima. I video che vedono attrici queste donne sono scaricabili a pagamento, ma abbondanti dosi di loro estratti e foto di scena sono gratuiti. I filmati sono francamente disgustosi e disturbanti. Si perviene sempre alla poltiglia splatter, a volte dopo un lunghissimo tempo di tortura della vittima o delle vittime di turno, che prima, durante o dopo gli atti sadici possono anche essere annaffiati dalle urine delle torturatrici. Tuttavia, c'è anche di peggio. Sembra che esistano siti pirata nei quali circolano filmati ancora più raccapriccianti. Si schiacciano topolini, criceti, pulcini, coniglietti, gattini, cagnolini. Tale girone infernale, le fattezze delle signorine sono incontrovertibili, si colloca in Cina e nell'Asia, dove evidentemente l'insensibilità verso gli animali raggiunge vette sconosciute all'Occidente. Chi compra tali video? Chi li produce? Qual è il giro d'affari che ruota attorno alla sofferenza di esseri viventi? Mistero fitto su chi produce i filmati. Dai siti non è possibile pervenire a società e luogo di produzione. Il giro d'affari procurato da tali attività deve essere molto remunerativo. La prova indiretta è data dalle centinaia di siti esistenti, ciascuno con un catalogo con un'infinità di video. In più paesi occidentali, varie associazioni hanno tentato o stanno tentando di far approvare dai propri parlamenti leggi, già vigenti ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, che bandiscano non solo tali atti di gratuita quanto redditizia crudeltà, eseguiti nel territorio nazionale, quanto il loro commercio e chi scarica i filmati. Insomma, si chiedono norme simili a quelle che sanzionano la pedopornografia. E in Italia? La legge 201 del 4 novembre 2010 punisce gli atti di questo tipo, ma il fenomeno, negli inferi del web, è presente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rino Tripodi, Animaletti vivi schiacciati sotto tacchi a spillo, dal numero di giugno della rivista online Lucidamente. Nuoce gravemente all'intelligenza. Ecco una nuova scritta da mettere sui pacchetti di sigarette. Lo dicono i risultati di una ricerca del gruppo del Centro Studi Nazionale di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia Respiratoria di Verona, guidato dal professor Roberto Dal Negro, che ha sottoposto a test 400 fumatori fra 40 e 80 anni, alcuni con broncopneumatia cronica ostruttiva, BPCO, che riduce la capacità respiratoria al 90% legata al fumo, altri con bronchite cronica, sempre tipica di chi fuma, e altri ancora senza sintomi. I test misuravano memoria, attenzione, orientamento e calcolo. Ed è emersa un'allarmante presenza di deficit cognitivi a livelli patologici, oltre le medie fisiologiche, con andamento parallelo alla gravità della condizione clinica. Un deficit di questo tipo si trovava nel 45% dei soggetti con BPCO, nel 30% di quelli con bronchite cronica e anche nel 2% dei fumatori asintomatici, dice Dal Negro. C'è quindi un meccanismo ancora da chiarire che lega malattie respiratorie e cervello. La BPCO sembra ridurre le capacità cognitive di un cinquantenne a quelle medie di un settantenne. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alex Saragosa, Il fumo nuoce all'intelligenza, dal venerdì di Repubblica del 13 giugno. Il pubblico ministero di Bolzano, Jacob Decas, protagonista del romanzo d'esordio di Katia Tenti, riceve una telefonata da parte di Stefan Tomasi, primario di anatomia patologica dell'ospedale, che lo informa del ritrovamento del cadavere dell'anziano Otto Pixner nel giardino di una villa sulla strada provinciale. Quella che all'apparenza sembra una morte per vecchiaia, finisce però per destare qualche sospetto e viene richiesta un'autopsia. Dal centralino passarono una chiamata per il dottor Decas. Era Stefan Tomasi, il primario di anatomia patologica dell'ospedale cittadino, che lo informava della morte di Otto Pixner, il cui cadavere ora giaceva su un lettino dell'obitorio. Il riscontro diagnostico era stato richiesto con insistenza e nonostante l'avanzata età del morto da parte dell'ufficiale. Il riscontro diagnostico era stato richiesto con insistenza e nonostante l'avanzata età del morto da parte dell'ufficiale sanitario, il dottor Oswald Müller. Müller conosceva Pixner da anni, si erano incontrati qualche giorno prima e lo aveva trovato in ottime condizioni. Non avrebbe firmato nulla senza un'autopsia. Ora Tomasi sembrava imbarazzato. Decas alzò gli occhi al cielo. «E lei cosa ha fatto?» «Ho incaricato il mio aiuto, Ferdinand, di farla». «E?» «Non una morte per semplice arresto cardiocircolatorio, come scritto nel referto, ma una vertebra cervicale fratturata». Stefan Tomasi finì il suo caffè accasciato sulla poltroncina girevole dell'ambulatorio. Leo Ferdinand era un idiota. Non ne aveva mai dubitato e ora ne aveva la conferma. L'idea che dal cadavere di un ottantenne, aperto più per dovere burocratico che per interesse scientifico, potesse nascere una vicenda giudiziaria, lo irritava non poco. Il suo reparto era citato spesso nei discorsi dell'assessore alla sanità come un punto di eccellenza del sistema. Se solo avesse sospettato qualcosa, non avrebbe affidato il compito a un perfetto incapace. Lo avrebbe svolto personalmente, con tutte le cautele professionali. Trovata la frattura, si sarebbe fermato e avrebbe chiamato immediatamente il pubblico ministero. Invece Leo Ferdinand, smanioso di fare, aveva strafatto, aprendo tutto, continuando il riscontro anche dopo aver accertato la presenza della frattura alla vertebra cervicale. Sorseggiando dal bicchierino, già se lo immaginava con la sua boria mentre dava ordine all'assistente di segare il torace del vecchio a V, scarnando per bene la pelle intorno in modo da liberare l'esofago. Già dopo questa semplice operazione si sarebbe dovuto rendere conto della frattura cervicale e probabilmente così era stato. A quel punto si sarebbe dovuto fermare, effettuare i necessari prelievi e richiudere. Invece no. Tomasi si immaginò anche l'inutilità del suo assistente. Erano figure senza nessuna professionalità, nessun titolo di studio, meri esecutori. Tomasi spesso aveva segnalato alla direzione dell'ospedale questa mancanza. L'assistente di Ferdinand era un macellaio vero, che a causa di un incidente era rimasto mezzo invalido e si era riciclato in quel ruolo parasanitario, come lo chiamavano quelli della ripartizione al personale. Aprire un uomo era uguale ad aprire un manzo. Che colpa ne aveva? In fin dei conti eseguiva gli ordini di un vero e proprio medico. Ferdinand aveva fatto ricomporre e ricucire il cadavere che ora si ritrovava al petto pieno di ovatta e di ritagli di ossa, senza neppure prelevare materiale organico per le successive analisi. Pensò un attimo ai parenti delle vittime. Rivedevano i corpi ordinati e rivestiti di tutto punto, come se nulla fosse accaduto dopo un'autopsia, e senza immaginare che dentro era stato creato un caos di organi, pelle e ossa. Ferdinand aveva perfino scoperchiato il cranio del vecchio con la sega circolare a cercare chissà cosa. Aveva prelevato ogni organo pesato con meticolosa precisione, annotando tutto sul formulario del referto. Cosa pensava di trovare nel cervello? Anche quello alla fine era stato infilato dentro la pancia e al suo posto nella cassa cranica ora ci stava un bel grumo di cotone bianco. Un bel pasticcio, pensò sospirando Tomasi, che Ferdinand non se l'era scelto. Un paraculo raccomandato che se la sarebbe cavata senza nemmeno un richiamo. Rassegnato, gettò il bicchierino del caffè nel cestino. Cercò di rassicurarsi, minimizzando. Si sarebbe risolto tutto in una bolla di sapone. Decas ordinò il sequestro della salma. Poi, dopo averlo nominato consulente tecnico, chiamò Alberto Widulich alla facoltà di medicina di Padova, ordinando una nuova autopsia. A 80 anni può facilmente essere morto di vecchiaia, ma la vertebra fratturata è strana. Magari si è sentito male, è caduto e se l'è rotta. Potrebbe anche trattarsi di una morte violenta causata da terzi, spiegò ad Alberto. Parto, rispose l'amico riattaccando. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Katia Tenti, Ovunque tu vada. Marsiglio, 448 pagine, 18 euro. Everything's changing soon. I don't know how.